Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Margheriti Jursenar. Mi è toccata una sorte analoga a quella di certi giardinieri. Tutto quel che ho cercato di piantare nella immaginazione umana vi ha preso radice. Il culto di Antino sembrava la più folle delle mie iniziative, lo straripare d'un dolore che non riguardava che me. Ma la nostra epoca è avida di dei, preferisce i più ardenti, i più tristi, quelli che mescolano al vino della vita un miele amaro d'oltretomba. A Delfi il giovanetto è divenuto l'Hermes guardiano della soglia, padrone dei passaggi oscuri che conducono alle ombre. Eleusi, il luogo ove l'età e la sua qualità di straniero gli avevano impedito un giorno d'essere iniziato al mio fianco, ne fa il bacco giovinetto dei misteri, principe delle regioni confinanti tra i sensi e l'anima. L'Arcadia ancestrale lo associa a Pan e a Diana, divinità dei boschi. I contadini di Tivoli l'assimilano al dolce Aristeo, re delle api. Un tempo, quando pensavo alla mia fine, come un pilota non curante di sé trema però per i passeggeri e il carico della nave, mi dicevo amaramente che quel ricordo sarebbe affondato con me. Mi sembrava così che quel giovane essere, imbalsamato con tanta cura nel fondo della mia memoria, dovesse perire una seconda volta. Questo timore, pur tanto giusto, si è in parte placato. Ho compensato come ho potuto quella morte precoce. Per qualche secolo almeno sussisterà un'immagine, un riflesso, un eco fievole di lui. Non si può far molto di più in materia di mortalità. La mia anima, seppure ne posseggo una, è fatta della stessa sostanza degli spettri. Questo corpo dalle mani gonfie, dalle unghie livide, questa triste carne già per metà in dissoluzione, quest'otre di mali, di ambizioni e di sogni, non è molto più solido né più consistente d'un'ombra. Non mi distingo dai morti se non per la facoltà di soffocare qualche momento ancora. In un certo senso la loro esistenza mi sembra più certa della mia. Antino e Plotina sono reali almeno quanto me. La meditazione sulla morte non insegna a morire. Non rende l'esodo più facile, ma non è questo quel che io cerco. Piccola figura imbronciata e volontaria, il tuo sacrificio non ha arricchito la mia vita, ma la mia morte. Il suo approssimarsi ristabilisce tra noi due una sorta di intima complicità. I vivi che mi circondano, i servi devoti, importuni a volte, non sapranno mai sino a qual punto il mondo non ci interessa più. Penso con disgusto ai tetri simboli delle tombe egizie, l'arido scarabeo, la rigida mummia, la rana dei parti eterni. A dar retta ai sacerdoti t'ho lasciato in quel luogo ove gli elementi d'un essere si lacerano come un abito logoro che si strappa, in quel sinistro crocevia tra ciò che esiste eternamente, ciò che fu e ciò che sarà. Può darsi che in fin dei conti essi abbiano ragione, che la morte sia fatta della stessa materia fluttuante in forme della vita. Ma tutte le teorie sull'immortalità mi ispirano diffidenza. Il sistema delle retribuzioni e delle pene lascia freddo un giudice consapevole della difficoltà d'un giudizio. D'altra parte mi accade altresì di trovar troppo banale la soluzione opposta, il puro nulla, il vuoto ove risuona la risata d'Epicuro. Osservo la mia fine. Questa serie di esperimenti compiuti su me stesso prosegue il lungo studio iniziato nella clinica di Satiro. Fino a ora sono mutamenti esteriori quanto quelli che il tempo e le intemperie fanno subire a un monumento di cui non alterano né la materia né la plastica. A volte, attraverso le crepe, mi sembra di scorgere e toccare le fondamenta indistruttibili, il tufo eterno. Sono quel che ero. Muoio senza mutarmi. A prima vista l'adusto fanciullo dei giardini di Spagna, l'ufficiale ambizioso che rientra nella tenda scrollandosi dalle spalle i fiocchi di neve, sembrano tanto cancellati quanto lo sarò io dopo che sarò passato attraverso il rogo. ma essi son qui. Io ne sono inseparabile. L'uomo che ha urlato sul petto d'un morto continua a gemere in un angolo di me stesso, a onta della calma più o meno che umana, alla quale partecipo già. Il viaggiatore, racchiuso nel corpo del malato ormai sedentario per sempre, si interessa alla morte perché essa rappresenta una partenza. Quella forza che io fui sembra capace ancora di animare parecchie altre vite, di sollevare dei mondi. Se per miracolo qualche secolo venisse aggiunto ai pochi giorni che mi restano, rifarei le stesse cose, persino gli stessi errori, frequenterei gli stessi olimpi e i medesimi inferi. Una constatazione simile è un argomento eccellente in favore dell'utilità della morte, ma nello stesso tempo mi ispira dubbi sulla totale efficacia di essa. In certi periodi della mia vita ho preso nota dei sogni. Ne discutevo il significato con i sacerdoti, i filosofi, gli astrologhi. La facoltà di sognare, attenuata da anni ormai, mi è stata ridata in questi mesi d'agonia. Gli incidenti dello stato di veglia ci appaiono meno reali, a volte meno importanti dei sogni. Se questo mondo larvale e spettrale, dove si miete l'informe e l'assurdo, ancor più largamente che sulla terra, ci offre un'idea delle condizioni dell'anima separata dal corpo, senza dubbio trascorrerò l'eternità a rimpiangere il controllo squisito dei sensi e l'adattamento prospettico della ragione umana. E tuttavia, non è privo di dolcezza questo immergersi nelle regioni vaghe dei sogni. Ivi possiedo per un istante segreti che subito mi sfuggono, mi disseto a sorgenti. L'altro giorno mi trovavo nell'oasi di Ammone, la sera della caccia alle belve. Ero felice, tutto si è svolto come ai bei tempi della mia forza. Il leone ferito è caduto, poi si è rialzato. Mi sono avventato per finirlo, ma questa volta il mio cavallo, impennatosi, m'ha gettato a terra. L'orribile massa sanguinante mi è precipitata addosso, le sue zanne m'hanno lacerato il petto. Sono tornato in me, nella mia camera di Tivoli, invocando aiuto. Ancor più di recente ho rivisto mio padre, eppure ci penso ben poco. Giaceva nel suo letto di malato in una stanza della nostra casa di Italica, che ho lasciata subito dopo la sua morte. Aveva sul tavolo una fiala piena d'una pozione sedativa e l'ho supplicato di darmela. Mi sono destato senza che avesse avuto il tempo di rispondermi. Mi fa meraviglia che la maggior parte degli uomini abbia tanta paura degli spettri, mentre si acconsente così facilmente a parlare con i morti in sogno. Anche i presagi si moltiplicano. Ormai tutto sembra un'intimazione, un segno. Ho lasciato cadere e infrangersi una preziosa pietra incastonata in un anello sulla quale un artigiano greco aveva inciso il mio profilo. Gli auguri scrollano gravemente il capo. Io rimpiango semplicemente quel capolavoro. Mi capita di parlare di me stesso al passato. In Senato, discutendo avvenimenti posteriori alla morte di Lucio, mi si è inceppata la lingua e varie volte mi sono trovato a parlare di quelle circostanze come se avessero avuto luogo dopo la mia morte. Pochi mesi fa, il giorno del mio anniversario, mentre mi portavano in lettiga su per le scale del Campidoglio, mi sono trovato faccia a faccia con un uomo in gramaglie che piangeva. Ho visto il mio vecchio Cabria cambiar colore. In quell'epoca uscivo ancora, continuavo a esercitare le mie funzioni di pontefice massimo, di fratello Arvale, a celebrare io stesso quei riti antichi della religione romana che finisco per preferire alla maggior parte dei culti stranieri. In piedi, davanti all'altare, m'apprestavo ad accendere la fiamma. Offrivo agli dèi un sacrificio per Antonino. Improvvisamente il lembo della toga che mi copriva la fronte scivolò e mi ricadde sulla spalla, lasciandomi a testa scoperta. Passavo così dal rango di sacrificatore a quello di vittima. E, a dir il vero, è proprio la mia volta. La vita è atroce, lo sappiamo, ma proprio perché aspetto tanto poco dalla condizione umana, i periodi di felicità, i progressi parziali, gli sforzi di ripresa e di continuità mi sembrano altrettanti prodigi che compensano quasi la massa immensa dei mali, degli insuccessi, dell'incuria e dell'errore. Sopravverranno le catastrofi e le rovine, ma di tanto in tanto verrà anche l'ordine. La pace si instaurerà di nuovo tra le guerre. Le parole umanità, libertà, giustizia ritroveranno qua e là il senso che noi abbiamo tentato di infondervi. Non tutti i nostri libri periranno. Si restaureranno le nostre statue infrante. Altre cupole, altri frontoni sorgeranno dai nostri frontoni, dalle nostre cupole. Vi saranno uomini che penseranno, lavoreranno e sentiranno come noi. Oso contare su questi continuatori che seguiranno a intervalli irregolari, lungo i secoli, su questa immortalità intermittente. Se i barbari si impadroniranno mai dell'impero del mondo, saranno costretti ad adottare molti dei nostri metodi e finiranno per rassomigliarci. Cabria si preoccupa di vedere un giorno il pastoforo di Mitra o il vescovo di Cristo prendere dimora a Roma e rimpiazzarvi il pontefice massimo. Se per disgrazia questo giorno venisse, il mio successore, lungo i crinali vaticani, avrà cessato d'essere il capo d'una cerchia d'affiliati o d'una banda di settari, per divenire a sua volta una delle espressioni universali dell'autorità. erediterà i nostri palazzi, i nostri archivi, differirà da noi meno di quel che si potrebbe credere. Accetto con calma le vicissitudini di Roma eterna. Le medicine non mi soccorrono più. Aumenta l'enfiagione delle mie gambe e sonnecchio seduto più che disteso. Uno dei vantaggi della morte sarà d'esser disteso ancora in un letto. Ormai tocca a me consolare Antonino. Gli ricordo che da tempo ormai la morte mi appare la soluzione più elegante dei miei problemi. Come sempre, i miei voti finiscono per realizzarsi, ma in modo più lento, più indiretto di quel che potessi mai credere. Mi rallegro che il male m'abbia lasciato la lucidità sino all'ultimo, di non aver dovuto subire la prova dell'estrema vecchiezza, di non essere destinato a conoscere quell'indurimento, quella rigidità, quell'inerzia, quell'atroce assenza di desideri. Se i miei calcoli sono giusti, mia madre è morta pressa poco all'età alla quale io sono giunto. La mia vita è già stata d'una metà più lunga di quella di mio padre, morto a 40 anni. Tutto è pronto. L'aquila incaricata di recare agli dèi l'anima dell'imperatore è tenuta in riserva per la cerimonia funebre. Il mio mausoleo, sulla sommità del quale vengono piantati in questo momento i cipressi destinati a formare contro il cielo una piramide nera, sarà terminato pressa poco in tempo per deporvi le mie ceneri ancor tiepide. Ho pregato Antonino che in seguito vi faccia trasportare Sabina. Ho trascurato di farle decretare onori divini alla sua morte e in fin dei conti le son dovuti. Non è male riparare a questa negligenza e vorrei che i resti di Elio Cesare fossero collocati al mio fianco. M'hanno portato a Baia. Con questo caldo di luglio il tragitto è stato penoso, ma in riva al mare respiro meglio. L'onda manda sulla riva il suo mormorio, fruscio di seta e carezza. Godo ancora le lunghe sere rosate, ma ormai non reggo più queste tavolette che per occupare le mie mani che si muovono, mio malgrado. Ho mandato a chiamare Antonino. Un corriere lanciato a tutta corsa è partito per Roma. Rimbombano gli zoccoli di Boristene, galoppa il cavaliere Trace. Il piccolo gruppo degli intimi si stringe al mio capezzale. Cabria mi fa pena. Le lacrime mal si addicono alle rughe dei vecchi. Il bel volto di Celere è, come sempre, singolarmente calmo. È intento a curarmi senza lasciar trapelare nulla che potrebbe contribuire all'ansia o alla stanchezza d'un malato. Ma Diotimo singhiozza, la testa affondata nei guanciali. Ho assicurato il suo avvenire. Non ama l'Italia, potrà realizzare il suo sogno di far ritorno a Gadara e aprirvi con un amico una scuola d'eloquenza. Con la mia morte non ha nulla da perdere e tuttavia l'esile spalla si agita convulsamente sotto le pieghe della tunica. Sento sotto le dita queste lacrime deliziose. Fino all'ultimo istante Adriano sarà stato amato d'amore umano. Piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo, ora t'appresti a scendere in luoghi incolori, ardui e spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti. Un istante ancora, guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più. Cerchiamo d'entrare nella morte a occhi aperti. Buongiorno, sono Giorgio Ficarra, parliamo e anzi concludiamo con alcune brevissime osservazioni sulle memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Introducendo questo strano oggetto, questa cosa, diciamo tra virgolette, questo non romanzo, questo romanzo saggio che è le memorie di Adriano, avevamo detto appunto che contiene una prescrizione conoscitiva, che si scrive questa narrazione per in effetti con un'idea e con un'idea oristica, insomma, che lo accompagna fin dalle sue fondazioni. Questo oggetto che si chiama Memorie di Adriano, della Yourcenar, è un gesto eminentemente riflessivo, a mio parere, proprio nell'accezione che diceva Adorno in quel saggio degli anni 30, più o meno, che era sull'ingenuità epica. Cioè, è innanzitutto qui, nella Yourcenar, nel senso di una interrogazione sulla consistenza, sulla possibilità di consistenza del personaggio nella narrazione novecentesca. Quindi queste Memorie di Adriano, che sono un grande crogiuolo di osservazioni filosofiche, storiche, avventurose, narrative, fisiologiche, eccetera, eccetera, è innanzitutto forse una domanda sulla idea di personaggio. Chi sia il personaggio, che cosa possa essere rappresentato il personaggio nella narrazione novecentesca. Adriano, chi è questo curioso personaggio di cui avete sentito parlare, appunto, che avete sentito nelle letture? È questo molle ellenistico che si costruisce questa immensa e deliziosa villa di Tivoli? È un personaggio invece crudele che a un certo punto doma quella rivolta a Gerusalemme e uccide 500.000 uomini? È un personaggio sicuro di se stesso ma prudente che costruisce vicino a Newcastle in Inghilterra il Vallo Adriano? Ecco, è un personaggio che è tutte queste cose insieme e moltissime altre ancora che non posso dire adesso in questi pochissimi minuti, ma è innanzitutto un personaggio informe, come dice proprio la Yourcenar, cioè è un personaggio che non va diritto al suo scopo come una freccia, cito, non va diritto al suo scopo come una freccia, come fanno tutti i personaggi della narrazione rappresentativa semplice, come fa Oliver Twist, come fa Renzo Tramaglino. Ecco, questi sono personaggi che vanno diritti al loro scopo come una freccia. Questo imperatore Adriano è un personaggio contraddittorio, problematico, di cui non sappiamo tutto, di cui non sappiamo né sapremo tutto. Quell'idea del personaggio che diceva Benjamin in quel bellissimo saggio sulla narratività in Angelus Novus, che è, diciamo, è colui al quale noi scaldiamo la nostra vita infreddolita, perché noi sappiamo tutto di un personaggio che ci viene raccontato da un autore. Ecco, in questo caso, questo è un personaggio che, nonostante lo stoicismo dichiarato, nonostante la sua filosofia, non ha destino, non è questa freccia che va da un punto all'altro, ma è un personaggio che invece si scioglie, direi, nell'universo in modo non esemplare. È un personaggio che non ha fine, nel senso che non ha un fine. E le ultime due righe del romanzo, bellissime in effetti, ce lo dimostrano. Piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo, ora ti appresti a scendere in luoghi incolori, ardui e spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti. Un istante ancora, guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo più, cerchiamo di entrare nella morte, occhi aperti. Ecco, se pensiamo ai romanzi, stabiliti dalle regole della consecutività, che quindi finiscono, sappiamo di trovarci qui in una specie di, diciamo così, infinito incominciamento non romanzesco. al divino Adriano Augusto, figlio di Traiano, vincitore dei Parti, nipote di Nerva, pontefice massimo, rivestito per la 22esima volta della potestà tribunicia, 3 volte console, 2 volte trionfatore, padre della patria, e alla sua divina consorte Sabina, Antonino loro figlio, a Lucio Elio Cesare, figlio del divino Adriano, 2 volte console. Gianni Musi ha letto Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, postfazione di Giorgio Ficara, edizioni Einaudi, traduzione di Lidia Storoni Mazzolani, riduzione e regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it